Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Ernesto Preatoni, 71 anni, 3 mogli, 7 figli, imprenditore di pura razza brianzola. Stile spiccio, grande fido per gli affari, prima di borsa, poi immobiliari. Lupo solitario nella Milano dominata da Enrico Cuccia e da Mediobanca. Non fa parte di nessun cerchio magico, combatte da solo, vince, perde, vince di nuovo. Con un solo grande maestro, Aldo Ravelli, per 50 anni re della borsa italiana. Scrive sui giornali, fonda un movimento di opinione, si batte perché l'Italia esca dall'euro. Oggi è il più grande imprenditore turistico italiano con attività all'estero. In Egitto, a Sharm el Sheikh, ha trasformato il deserto in un paradiso terrestre. Oggi il suo paradiso sembra a rischio perché la Farnesina ha sconsigliato Sharm perché dice ci sono rischi di un progressivo deterioramento della sicurezza. Ecco, signor Preatoni, lo sconsiglio della Farnesina dice che è pericoloso andare a Sharm. È a rischio il suo paradiso? È una vergogna per la Farnesina asserire queste cose, perché come mai gli inglesi non hanno... Ma lei quando ci è andato l'ultima volta? Poco tempo fa, ma soprattutto c'erano i miei figli, anche quelli più piccoli, quindi non c'è nessun tipo non di pericolo. Non hanno paura? Ma di nessun genere. Però la Farnesina però dice che il rischio di un progressivo deterioramento della situazione c'è. Perché dovrebbe dire cose non vere? Ma perché i burocrati tendono evidentemente a difendere il loro operato, le loro spalle, non sicuramente perché hanno delle informazioni migliori di quanto abbiano gli altri. Come mai gli inglesi non hanno fatto nessun sconsiglio? Come mai i russi non hanno fatto nessun sconsiglio? Forse i servizi segreti inglesi e russi sono di qualità inferiore a quelli italiani. Senta, ma gli altri paesi dell'Europa hanno fatto lo sconsiglio oppure no? I tedeschi, che assomigliano molto agli italiani in questo, però devo dire che è in atto in Germania una reazione contro il Ministero degli Esteri, invece vedo che in Italia tutto tace. Senta, si accetta supinamente. Ma lei si rende conto della responsabilità che si assume se capitasse qualche incidente con quello che dice? Certo, bisognerebbe chiudere le autostrade italiane, perché ogni anno ci sono 10.000 morti sulle autostrade. 10.000 morti? Mi sembrano tanti. No, credo di sì, 10.000 vittime. Forse è più probabile. Senta, ma è vero che Mubarak vive a Sharm? Sì, signore. E non è un rischio in più? Ma per quale motivo? Mubarak ormai è un uomo dimenticato da tutti. Senta, Sharm, prima di lei, era semplicemente un deserto. Che cosa l'ha convinto a costruire proprio lì? Ma lo stesso motivo per cui è vincente ancora Sharm, cioè la vicinanza all'Europa, il clima più bello del mondo, il mare più bello del mondo. Cioè queste sono cose che gli egiziani, nonostante ce la mettono tutta, non riusciranno mai a distruggere. Per cui Sharm è sempre risorto e continuerà a risorgere. Ma chi l'ha aiutato a fare Sharm? Nessuno, la mia intuizione. E che cosa ha intuito andando a Sharm? Perché era un deserto assoluto. Guarda, io non sono capitato per caso, ero prima andato a Eilat perché ero alla ricerca del posto più vicino all'Europa, con stagionalità 12 mesi, con mare bello e sole. Per cui io sono andato prima a Eilat, poi a Hurghada, poi a Berenice e mi sono fermato a Sharm perché l'ho giudicato il posto più interessante dal punto di vista turistico. Ma è vero che a suo tempo lei ha chiesto a Berlusconi di convincere Mubarak a consentirle di costruire un lago come quello di Como nel deserto? Sì, signore, l'Egitto ha dimostrato in questo caso di essere poco lungimirante. Ma per cosa voleva farci con un lago come quello sarebbe di uno Como? Di quei business da tramandare alla storia. Volevo perché? Semplicemente passare alla storia, perché sono sicuro che farei... Cioè un lago in mezzo al deserto, secondo lei è un grande business? Ho fatto a Sharm 16.000 vendite immobiliari. Se facessi un lago lì attaccato al Coral Bay, al domino Coral Bay, probabilmente farei 160.000 vendite immobiliari. Senta, ma com'è andata a finire? Niente, non le hanno fatto fare sto lago. Le invidie di personaggi molto vicini a Mubarak hanno determinato che così forse era meglio non farlo. Poi è arrivata la rivoluzione, eccetera, quindi. Ma vedrà che prima o poi lo faremo. Lo farà? Senta, ma l'Egitto oggi è un paese senza pace. Ci sono scontri continui tra islamici e l'esercito. È una situazione in peggioramento o in miglioramento? Ma non è cambiato nulla rispetto ai tempi di Mubarak. C'è una sola cosa che è estremamente positiva, che Mubarak non era popolare, mentre invece al-Sisi è estremamente popolare, per cui cui secondo me l'Egitto ha intrapreso una strada che è assolutamente di tranquillità, a parte il fatto che a Sharp non è mai successo nulla, ma questo alla Farnesina lo ignorano. Senta, però un presidente eletto come Morsi, regolarmente eletto, legittimamente eletto, è stato destituito da un colpo di Stato. Sembra normale? La nostra storia, intendo dire di noi europei, è piena evidentemente di rotture col passato. La rottura col passato non può che essere fatta in questo modo. Anzi, Morsi ha fatto un grande favore al Sisi, perché era talmente impopolare che, come si è potuto vedere... Però era stato eletto. Quindi, era stato eletto impopolare in un paese dove il 60% sono analfabeti, capirà, solo gli americani potevano pensare di esportare la democrazia in Egitto. Ecco, appunto, tutta l'area del Medio Oriente, dopo l'illusione delle primavere arabe, è alla ricerca di nuovi equilibri, ma l'Occidente ha sbagliato tutto lì. Ma io non credo che l'Occidente sappia per bene cosa succede. Io mi ricordo quando Condoleezza Rice è venuta al Cairo, e è venuta al Cairo forse per giustificare gli errori che avevano fatto in Iraq, in Afghanistan, e diceva che volevano esportare la democrazia in Egitto. Quanto di più ridicolo ci possa essere. Senta, ma è vero che la Russia di Putin ha sempre più influenza in Egitto? Credo di sì, perché se noi occidentali facciamo di tutto per boicottare l'Egitto, è chiaro che l'Egitto evidentemente deve trovare qualche altro partner. Lei è il più grande imprenditore italiano del turismo fuori dall'Italia, dove oltre a Sharm? Ma io adesso per esempio sto cercando di andare in Myanmar, l'ex Birmania, ma noi abbiamo anche a livello turistico, abbiamo delle cose anche nei Baltici, abbiamo sicuramente degli altri progetti. Io ho girato a mezzo mondo per trovare anche un altro posto, no? Come Sharm. Anche in Russia. In Russia abbiamo 7 progetti, in Russia uno terminato, uno quasi terminato e 5 da terminare. Quindi in qualche modo la Russia di Putin è un po' sua compagna di viaggio? Ma io delle questioni politiche mi occupo molto poco. No, lo dico perché l'area di influenza lei ha nelle Repubbliche Baltiche, mi sembra che ha interessi, no? Certo, ecco, molti. Lì si sente là un po' di aria di Putin o no? Ma assolutamente no. Ma Putin e i russi hanno capito una cosa che io ho intuito nel 94. Quando si invade un paese ostile, il costo dell'occupante è superiore al costo dell'occupato. Per cui un conto è la Crimea, dove sono tutti russi, va bene, ma andare a occupare un paese che in modo lì. Ostile, certamente che finisce lì. Quindi, viaggiando e lavorando da quelle parti, non sente aria di nuova guerra fredda? Ma assolutamente no. Senta, lei negli anni 90, fine degli anni 80, ha tentato la scalata alle generali in Italia, però è stato fermato da Enrico Cuccia, che era il patron di Mediobanca. Perché? Ma perché è lui che l'ha fatto emigrare? Ha contribuito a farmi capire che questo era un paese che non aveva futuro. Mediobanca, Generali era il cuore del potere di Cuccia e di Mediobanca, non poteva accettare una cosa del genere, e uscì con un aumento di capitale dove noi tiravamo fuori i soldi e i diritti di voto andavano a lui. Mi ricordo che un mio compagno d'avventura americano di livello mi disse: ma voi siete il Tanganyika. Certo, perché per Cuccia le azioni si pesavano e non si contavano. Senta, visto oggi in prospettiva storica, Cuccia ha fatto del bene o del male all'Italia? Ma Cuccia è l'antitesi, a mio modo di vedere, della società aperta. Se le azioni si pesano e non si contano, vuol dire che siamo proprio Karl Popper si rivolterebbe nella tomba. Senta, signor Preatoni, lei ha creato una fortuna partendo da Garbagnate, un paesino a nord di Milano. Qual è stata la sua molla? L'ambizione, la voglia di emergere. E la qualità del carattere che l'ha aiutata di più? Sicuramente la determinazione. Io alla fine non ho mai perso, nel senso che anche quando così quasi mi uccidevano, in realtà riuscivo sempre a risolvere. Ancora vinto. Senta, 3 mogli, 7 figli, è stato molto importante l'amore nella sua vita. Ah, sicuramente. Anzi, le dico una cosa: sul piano della vita privata sono stato fortunatissimo. Diciamo che ho avuto la sfortuna di nascere in Italia. Se fossi nato in America avrei fatto sicuramente molto di più. E dico una cosa: anche Warren Buffett, che è il più grande di di patrimonio al mondo, se fosse nato in Italia non avrebbe mai neanche potuto lontanamente fare quello che ha fatto. Senta, mi dice un suo difetto, perché così sono estremamente impaziente, come tutti quelli che hanno tanta voglia di fare. Allora non è un difetto, è una qualità. Insomma, è il rovescio della medaglia di una qualità. Senta, Ma il primo affare qual è stato? Primissimo? Ma non lo so, ho cominciato a vendere arredamenti per negozi mentre ero all'università e mi ricordo che guadagnai abbastanza per fare delle vacanze abbastanza ricche. Divertenti. Insomma. Senta, signor Pretone, lei si ritiene un duro, lo dice lei, che scende in campo quando il gioco si fa duro. Ecco, quando si è accorto di essere un duro? Guardi, quando ho cominciato a fare l'immobiliare seriamente in Italia in una riunione qualcuno mi disse: ma dai Pretone, prenda questa decisione che lei i cosiddetti li ha sempre avuti e ce li ha. Io ci ho pensato e ho detto: ma forse è vero. E quindi prendo questa decisione. Avevo già 40 anni comunque. Senta, adesso molti pensano che l'arrivo di Renzi, il barbaro per qualcuno, al governo segni l'inizio di un'epoca di profondo cambiamento. Lei lo crede oppure no? No, perché la montagna da spostare è una montagna enorme, va bene, e non riuscirà nessuno a spostarla. E alla, diciamo che Lei pensa che non ce la può fare? Ma non ce la può fare il paese, semplicemente. Col debito pubblico che ci troviamo non possiamo progredire. Senta, nel 2008 solo il 12% degli italiani volevano uscire dall'euro. Adesso sono il 33%, sono statistiche che ho letto. È una fuga dalla realtà oppure un arrivare alla realtà? È un arrivare alla realtà e io credo di avere qualche merito in questo. Perché? Ma perché sono stato una voce nel deserto. Cioè, lei è sicuro che lasciando l'euro staremo meglio? No, io dico, bisogna fare tantissime cose, ma noi fino a quando rimarremo nell'euro non riusciremo a riemergere, mentre invece se lasciamo l'euro e facciamo tante altre cose, chiamiamole riforme, avremo evidentemente un futuro migliore davanti. Lei dice che la ricetta che ci impone l'Europa non è una medicina, ma è un veleno. Ma io conosco tante di quelle cose che non vanno neanche sui giornali, purtroppo, perché c'è scarsa conoscenza dei fenomeni economici che mi fanno ritenere che, voglio dire, sia impossibile risolvere i problemi dell'Italia rimanendo nell'euro. Cioè, quindi tutti i nostri mali derivano da lì? Beh, no, tutti i nostri mali derivano dal fatto che siamo italiani, va bene. Ma ci sarà anche qualche qualità nell'essere italiano? Lei è italiano? Io vorrei, non invidio la qualità della vita dei tedeschi, cioè secondo me vivono meglio gli italiani dei tedeschi, però qui parliamo evidentemente di business e dobbiamo ammettere che i tedeschi sono più bravi di noi. Senta, però non è un po' troppo semplice pensare che tutto viene, il male viene dall'euro. Senta, cosa ci dice il presidente Romano Prodi sui rischi dell'uscita dall'euro? Il problema è molto semplice: volete andare avanti o volete andare indietro? Bisogna andare avanti, se no la storia ci uccide. Tutto qua, non possiamo mica pensare che nella globalizzazione, nel mondo che è diventato così grande, i singoli paesi possono resistere. Se lo vogliamo fare, se possiamo benissimo pensare di tornare indietro, con il che è finita. Con il che l'Europa, i paesi europei non avranno più niente da dire per secoli e secoli. Penso che l'Italia da sola difficilmente potrà essere ascoltata, ma in questo momento, oserei dire fortunatamente, anche se la parola, l'avverbio non va bene, abbiamo altri paesi che condividono i nostri problemi, cioè la Spagna e anche la Francia stessa, e quindi bisogna avere una politica economica alternativa volta allo sviluppo. Renzi sta facendo questo nella giusta direzione, abbiamo però bisogno di alleati, perché se no, se picchiamo i pugni sul tavolo da soli ci rompiamo le dita e non otteniamo nulla. Ha torto Prodi? Assolutamente sì, perché questa visione politica del problema è una prova di assoluto masochismo che andrebbe spiegata alle nuove generazioni che per realizzare un sogno di qualche sognatore che si chiami Prodi o Ciampi dovrebbero rinunciare alla qualità della loro vita. È qualcosa di assolutamente mostruoso quello che ho sentito dire. Mi sembra un'interpretazione un pochino riduttiva. Anche lei adesso dice che ci vuole un'uscita dall'euro, ma programmata, che determini un'inflazione controllata. Ma non è questa l'utopia vera, la follia? Non è mai riuscito a nessuno. Perché mai? Noi siamo usciti dallo SME e siamo riusciti a uscire con una inflazione che era controllata. È diverso dallo SME, È certo che è diverso, ma la vita ci pone di fronte sempre a delle situazioni nuove, noi le dobbiamo sapere affrontare. Non è che perché abbiamo sbagliato a fare l'euro dobbiamo tenercelo per i prossimi 200 anni. Però da soli andiamo indietro di 200 anni. Ma non è vero, se noi non fossimo rimasti fuori dall'euro da soli come ha fatto gli inglesi avremmo tratto grande vantaggio. Rimasti è diverso. Adesso un'altra cosa. Senta, Renzi comunque più che ridurre il deficit, vuol fare ripartire consumi e investimenti per provare a creare lavoro. Gli 80 euro in tasca agli italiani sono un primo passo in quella direzione? E sicuramente è un primo passo in quella direzione, se non che lui i soldi li trova aumentando le imposte da un'altra parte, e questo evidentemente non va assolutamente bene. Loro devono decidere che cosa fare, o la crescita o il controllo del debito pubblico. Le due cose assieme, ormai dimostrato dalla cosiddetta austerità espansiva, è stata una grande delusione. Io l'avevo detto in modo anticipato, quindi pensare di fare tutte e due le cose assieme è un suicidio. Non si riesce. L'Italia ha un debito pubblico spaventoso, però ha anche un gigantesco risparmio privato. La patrimoniale risolverebbe? Ma assolutamente no. Io ho fatto dei conti, li ho anche pubblicati. Se il 30% degli italiani potesse pagare la patrimoniale, dovrebbero pagare 300.000 euro per ogni nucleo familiare per portare il debito pubblico al 60%. Ma non stiamo scherzando, noi il debito pubblico non lo pagheremo mai e dobbiamo mettercelo bene in testa e non pagarlo. Per ridurlo il debito pubblico Ridurlo, adesso sono alla ricerca di 7-8 miliardi, per ridurlo l'1% all'anno dovrebbero essere 22 miliardi l'anno, ci vorrebbero 135 anni. Dai, no? Voglio dire, ci raccontiamo le storie del mago che noi pagheremo il debito pubblico. Il debito pubblico è sempre stato pagato, quando era di queste dimensioni, dall'inflazione, e noi lo possiamo fare in modo incontrollato oppure lo subiremo. Senta, lei dice che ci sa, però sarà così, però lo spread è sempre più basso, i fondi investono in Italia, vuol dire che è un affare. Ma guardi, se lei facesse il gestore di portafoglio e si facesse pagare il 2% all'anno, le offrono di comprare un titolo del debito pubblico tedesco all'1%, uno di quello italiano al 4%, lei è obbligato a comprarsi quello del debito pubblico italiano al 4%. Ma però prima non lo facevano, adesso lo fanno. Senta, lei dice che ci sono tre ragioni fondamentali per non investire in Italia, me le dice? Ma ce ne sono molti di più. Ma ha detto lei, tre. Sì, ma quelle fondamentali. Quelle fondamentali sono sicuramente la tassazione, il fatto che non si possa licenziare, il costo del lavoro e la burocrazia. Ma sempre meno vero questo, mi pare, che anche la riforma del lavoro. Ma non ho mai vinto una causa di lavoro in Italia io. Certo, c'ha tutto il suo lavoro fuori. Ne abbiamo avuto, però anche in Italia ma sempre fa. Più diminuendo. Ma anche ultimamente cause di lavoro ce ne sono, le garantisco, le cause di lavoro si perdono quasi automaticamente. Senta, lei ha detto che l'industria del turismo è penalizzata perché non si può costruire attaccato al mare. Ecco, ma la cementificazione delle coste non ha fatto abbastanza danni? Noi però dobbiamo decidere, mi ricordo Soru, presidente della regione Sardegna, che diceva che bisognava costruire 2 chilometri dal mare. Certo, è una scelta, però poi non lamentiamoci se i turisti non vengono, perché i turisti vogliono andare al mare. Beh, per adesso abbiamo abbastanza cementificata, però lei dice se usciamo dall'euro io apro 150 alberghi in Italia. Se usciamo dall'euro io sono convinto che si pongono le premesse per comprare alcune catene alberghiere italiane decotte, metterle assieme e farne un business. Tutto in riva al mare, eh? Dovunque esso sia, può essere anche in città, anzi gli alberghi di città normalmente rendono meglio di quelli al mare. Senta, lei è stato un pioniere in molte circostanze. Oggi che tipo di pionieri servono per far ripartire l'Italia? Presuntuosamente le dirò servirebbero tanti preatoni che avessero voglia di investire in Italia. Cosa che al momento non però vedo. ce ne sono di gente che investe in Italia, che lavora in Italia. Sono fa tutto fuori. Sono quasi tutti obbligati a investire, quelli che hanno già. Anche noi abbiamo ancora alcune cose in Italia, ve le dobbiamo supportare. Ma io, se dovessi mettere in piedi un'attività nuova, per esempio questa catena alberghiera, la domicilierei sicuramente in Svizzera e non in Italia. Senta, signor Pretone, a Sharm, nel suo resort, sono passati quasi tutti i politici, da Berlusconi a Prodi, ma lei è stato ascoltato mai da nessuno di loro? Non ho mai ottenuto nulla se non così dei viaggi gratis che ho fatto fare a qualche politico. No, ma a parte realtà, viaggi gratis, ascolto discussioni da cui è uscito qualche cosa di progettuale sul turismo. Sul turismo in Italia assolutamente no. Su che cosa invece? Vede, quando sento dire che bisognerebbe fare del sud Italia una grande Sharm el Sheikh, forse si sono dimenticati che la stagionalità a Sharm el Sheikh è 12 mesi e in Italia 3 o 4, insomma. Anche un po' di più. In Sicilia 7-8. No, no, guardi, sì. Noi abbiamo l'investimento in Sicilia e garantisco che al mese di aprile o maggio, se non ci sono i congressi, l'individuale non viene. Insomma. Senta, la politica non l'ha mai tentato? Per niente. Perché? Ma perché io sono un lupo solitario e poi mi piace dire le cose come stanno, e a dire le cose come si stanno non si guadagnano voti. Beh, però per far cambiare le cose in un momento come questo... Sarei un peone. Sarei un peone, non cambierei nulla. Senta, ma quando dice di essere un patriotta, allora che cosa intende lei per patriotta? Che mi piacerebbe tanto, prima di morire, di poter ritornare a fare degli investimenti seri in questo paese. E che cosa la convincerebbe a venire lei, Preatoni? Un'uscita dall'euro sarebbe sicuramente un forte incentivo. Per farla tornare? Per farmi tornare. Certo, il prezzo è un po' alto. Vedete, giudicate voi. Senta, tra poco è Pasqua. Lei passerà le sue vacanze a Sharm, il suo resort, malgrado la Farnesina? No, a Dubai, perché alcuni miei figli andranno a Sharm el Sheikh, io invece sarò a Dubai perché stiamo sviluppando delle idee un po' nuove a Dubai. Dubai cosa state... Stiamo costruendo un grattacielo da 600 unità, ma ne faremo probabilmente anche degli altri. E quindi vacanze a Dubai? Sì, io non vado mai in vacanza nel classico... Lei lavora sempre? Lavoro tutti i giorni, faccio vacanze e tutti i giorni lavoro. Grazie, tanti auguri. Grazie mille. Mix 24 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Mario, allora il titolo del faccia a faccia qual è? L'usciere dell'euro, cioè lo accompagna. Pietrangelo, l'Egitto, Sharm. L'Egitto, Sharm, però una cosa, dilla. Un appello a lui, ma invece di andare a Sharm, facesse una cortesia. Si mettesse al posto di Crocetta e si prendesse la Sicilia. Dopotutto l'aveva già detto. Beh, Farinetti, ce l'ha già, no? un investimento in Sicilia, basta allargarlo. Come diceva Farinetti, faccia del sud una Sharm el Sheikh. Come fosse per noi un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende, ma parole prende. E allora oggi dimistichezze d'amore, perché bisogna trovarsi una strada solitaria che sia pronta perché possa rubare alla notte una pagina bianca da scrivere. Questo musicista è un grande dimistichezze d'amore di testa. Maria Testa. Tiene una capa. Tiene una capa questa. E allora... Un cuore. Che cosa bolle in pentola oggi? Ok. Magia. Salamina a voi e a tutte le vostre famiglie. Signori, attenzione, ecco. La magia, l'illusionismo, la prestidiri, giri, miri, zirizzazione. E un po' di magia c'è anche nel DEF. Hai sentito un po' Priatoni che diceva, 80 euro qui, una tassa qui, Bonanni l'altro giorno ha detto, ma mi sa che ci sono delle partite di giro. Io non lo so, ancora devo leggermelo bene tutto, però non è agevole, devo dire, come impresa. Il Premier dice non ci sarà una manovra correttiva, vabbè, però nel DEF è prevista alla voce ulteriori aggiustamenti, diciamo, anche minimo per principio di cautela. Si dice che bisognerà comunque provare a far quadrare i conti nel 2015, che la cosa sarà fatta entro l'estate, vediamo, secondo me alla fine non succederà niente, però diciamo che lo scontrino si staccherà allora, se dovesse accadere questo. Conticino da 5 miliardi. Segnalo che oggi dovrebbe esserci una riunione, quella potrebbe essere interessante se la fanno, delle opposizioni a sinistra di Renzi, cioè di Civati, sì, di Fassina, quel gruppetto. E con... L'abbiamo sentito ieri, Fassina. Sì. E con Sel aggregata. Ma io non credo che ci sia un problema. No, non ci sarà sicuramente nessun problema. In questo momento Renzi viaggia col vento fortissimo e continuerà per un po' la sua luna di miele con il paese. Vediamo un po'. Ah, questo cavaliere. Dunque, beh, è arrivato il giorno, l'affidamento ai servizi sociali. L'affidamento ai servizi sociali è quindi la cura dei disabili. Però, per il cavaliere resta un grande problema. Affidamento ai servizi sociali, sì, è servizio presso i disabili, ma quelli più urgenti sono i disabili alla politica. Perché il vero problema suo è questo. Gestire anche tutto quel mondo che si è spaccato, perché poi su questa sua vicenda pare che ci sia un avvicinamento tra quelli che furono i reprobi afghani e i fedelissimi, ma soprattutto esce fuori una notizia che un bravissimo cronista come Giuseppe Falci stanotte ha twittato. Dobbiamo dargli il nomignolo, eh? Cioè, non è che c'è solo Balzac. Non è che c'è, ma c'è il Falci per ora, nome e cognome, ora troveremo. Allora, dobbiamo, Troveremo, forse essendo lui nisseno possiamo immaginarle una via corta, ma bella, ora ci arriverò. Insomma, dato la notizia, vi ricordate Paolo Bonaiuti che sì, era proprio senza lavoro, va sempre a sciarma. Insomma, Paolo Bonaiuti va sempre a sciarma. Insomma, Paolo Bonaiuti, sì, Alfanezzò. No. Sì, sentiremo la versione ufficiale da Alfano nel faccia a faccia che gli faremo lunedì. E quindi sapremo la versione ufficiale d'Alfano. Bello vivo in persona? Vivo in persona. Ma davvero. Fantastico. Sì. Sorridente. Allora, dai, forza, alla bolla. Caro Giovanni, credevi tu di aver inventato la sola quota rosa veramente funzionante d'Europa? Oggi è muta. Perché a Cipro hanno fatto di più. Beh, insomma, la presidente della Banca Centrale è una donna, è l'unica dell'Eurozona, quindi bisogna salutarla come una cosa importante. Si chiama Kristalina Georgiadis, spero di aver pronunciato bene il suo nome. E l'isola, come sapete, ha avuto una crisi finanziaria devastante qualche tempo fa, che ha portato a un salvataggio, a un prelievo forzoso sui conti correnti bancari dei cittadini. Qualcuno addirittura parlava, ricorderai, di modello Cipro, per cui Kristalina ha molto da fare. Non potevo non inserirmi a questo punto, nonostante i bavagli che subisco. Allora, vi piace la mia nuova musichetta di ingresso un po' selvaggia? Beh, vabbè, da quale giungla vieni? Ieri ho lanciato, come vi ricorderete, immagino, un appello ai maschi ascoltatori di Radio 24. Gli chiedevo di ricominciare semplicemente a scrivere lettere d'amore a noi donne, niente di particolare. No, allora, se dici maschio, femmina. Maschio. Vedi che non si può più dire, scusami se dimmi. Vedi che ormai coi tempi nuovi non è che puoi dire femmina, maschio, maschio. Come stai vuoi. Attenta, perché coi tempi nuovi ora è diventato corretto. Pericoloso. Ma io sono coraggiosa e quindi penale. Dico maschio. Dai. E ne ho trovato una lettera pazzesca che Salgari ha scritto a sua moglie Ida. Aida, fino ad oggi tutte le follie di cui un uomo è capace le ho provate, ma un giorno ho veduta voi. E me si è operato uno strano cambiamento. Ho sentito come il bisogno di amare, fuori dalle tempeste in cui ero fino a ieri vissuto. Ho sentito come il bisogno di porre un freno agli impeti ardenti del sangue febbricitante. Un bel bacio dal tuo selvaggio Malese. Per conoscere il talento, la fantasia e la vita di Emilio Salgari dovete ascoltare la seconda ora di Mix 24 a cura di Marina Milone. Vai con una bolla. Via, via! Mandali a più non posso! Via, via, via! Bello, un assalto alla dirigenza. Ve la ricordate la scritta Wells Fargo? Qualcuno certo. Pensa, vabbè, roba vecchia, non esiste più. Wells Fargo, vi informo, per chi non lo sa, ma molti lo sanno, per fortuna, è uno dei giganti dei mutui americani. Oggi dovrebbero uscire i dati. Gli analisti prevedono una crescita dei profitti, ma sarà frutto in realtà di un controllo dei costi e non di una crescita dei prestiti. Per cui Wells Fargo è un ottimo indicatore per capire come si è sgonfiata la bolla dei mutui americani. E nel 2012 erano pari a 125 miliardi, negli ultimi mesi del 2013 sono scesi a 50. Quindi, come vedi, c'è un indicatore molto preciso sul rallentamento di questa forma di finanziamento. Solo una nota un po' peperuta. Allora, tutti pensano che questo strumento e la bolla dei mutui subprime sia stata creata da Bush. Da Bush, sì, esatto. No. Da chi? Fu il prode Bill Clinton a creare gli strumenti e i veicoli per fare questa cosa qua. La nostra quota rosa è l'unica vera voce, dice Enrico dalla Grecia. I fan crescono. I fan crescono, Salamino! Salamino cambia musica! Cambiamola. Musica. Porco, come cambia musica? Sì, sì, volevate i canti gregoriani? Vabbè, ma no. Volevate i cori sul sagrato? No, no, adesso okay. Giusto appunto. Un Harry Potter ci sta bene perché il Santo Padre ha ricevuto un domenicano, Fray Betto, che è una specie di Gianni Minà che intervista Fidel Castro, sì, mo, adesso. E hanno parlato di riabilitare la figura di Giordano Bruno. Ora, tutte le zecche, tutti quanti fricchettoni che vanno a Campo dei Fiori davanti alla statua pensano che sia una specie di Giacinto Marco detto Pannella, anzi di Marco Pannella Marco. Detto Giacinto Marco, insomma, quello, no, era un mago. Un mago con tanto di bacchetta e venne portato a rogo per questo, un grandissimo mago. E però voglio ricordare a tutti che se la statua c'è sta lì ancora e nessuno l'ha mai tolta, certo. Sebbene un papa chiedesse che venisse rimossa, fu perché un unico capo di governo, unico socialista, unico rosso, disse no. Si chiamava Benito Mussolini. Va bene. Beh, però era lui. Comunque, a proposito del papa, un piccolo miracolo c'è stato dopo tanti appelli che gli sono stati rivolti. Finalmente domenica aprirà il mausoleo di Sant'Elena a Roma, un monumento legato alla madre dell'imperatore cristiano Costantino. Bolla. Tranquilli, non sono stato preso da un accesso di romanticismo. No, sono infatti mi preoccupavo. Tranquilli, rilassati, è solo per dire che Eyes, Google Glass, il colosso high-tech sta espandendo la sua sperimentazione e per chi vuole ci sarà una vendita flash negli Stati Uniti, $1,500 a occhiale, e comincerai a sperimentare la realtà virtuale. Non male, no? Non male. Non male. Il canzoniere. (800) 24 00 24 349 238 6666. Che mi impone d'amarti? Tu persuaditi che c'è qualcosa in te d'estraordinario, ma io non so mentire né lodarti così e colà come quei vagheggini, come quei gelsomini sfringuellanti e zampillanti, come femminette più profumati di un cesto dei fiori. No, io non so, ma so che t'amo e t'amo. Mix 24. Professor Simonelli, buongiorno. No. Come sta? Bene, bene. Ieri sera il canone l'ha soddisfatto, dov'era? Sentitelo un po', ve lo diciamo in musica. Il triangolo no, non l'avevo considerato, d'accordo ci troverò. La geometria non è un reato, garantisci. E allora? Il triangolo no, ma se il triangolo è composto da Gustav Jung, Sigmund Freud e Sabine Spielrein, allora il triangolo sì che è un triangolo. Perché stavamo... ieri sera su Rai 3 è andato in onda un film importante che si chiama A Dangerous Method, ed è un film di Cronenberg, ma a differenza del Cronenberg che tutti conoscono, quello di Inseparabili, di Crash, un regista estremo, anche un po' complesso, invece questa volta è una storia anche lineare, sia pure con la sua complessità, è la storia appunto di un triangolo costruito da Gustav Jung che ha rapporti con una sua paziente, la paziente è Sabine Spielrein, che diventerà a sua volta poi una grande psicanalista, ma all'interno c'è anche Freud che insomma non gradisce questa storia perché è un metodo un po' pericoloso. Se poi mettiamo che gli attori sono Viggo Mortensen, Michael Fassbender e Keira Knightley, insomma si capisce che siamo a livelli per cui il triangolo sì, il triangolo assolutamente, onore ai tre che presenta dei film. Vabbè, è uno, è un canone, stava lì, era l'unico canone di ieri. Ah, sì. intanto che film ci consiglia per il weekend? Ma per il weekend ci sono in TV alcune cose anche interessanti. Io direi che stasera, vabbè, intanto i 10 comandamenti è sempre una, non il film, il programma di inchiesta, 10 comandamenti, ma soprattutto vorrei dirvi una cosa, non so se è già ufficiale, se è domenica sera, per la gioia di Buttafuoco anche, che tempo che fa, Fabio Fazio intervista Giorgio Napolitano. Lo sapevamo. Tenevamo la notizia nascosta. E ormai è una specie di Falcone Lucifero. Il libro sull'Europa, si parla d'Europa e si andrà al Quirinale questa intervista, quindi credo che ci saranno anche molti commenti su come va l'intervista, perché insomma si sa, le interviste di Fazio suscitano apprezzamenti ma anche perplessità, in questo caso da noi solo e sempre apprezzamenti da parte di tutti. Non so. Dove? Se tutti sono d'accordo. Ma su chi? Ma su chi Napolitano? È? Su Napolitano che intervista Fazio. Io sono molto curioso, perché... Va bene, lo vedremo. Ma intanto il canzoniere, come andiamo? Male. Nessuno indovina. Lei non volta... ha neanche lei, professore? No, questa volta niente. Non c'è una telefonata per il canzoniere, difficile. Troppo difficile. 800 24 0024, SMS 349 238. Diamo un aiutino. In inglese, una questione abbiamo di volontà. 40 secondi. Una questione di volontà. Will. Non aiutare, basta. Non arriva nessuno. È lunedì, lo ripetiamo. Vabbè. Risparmiamo la fatica. Vuoi una bolla? Abbiamo 48 ore per studiare. E che la gente è disabituata all'amore, questo Soprattutto è quello. Sara Tardelli ha intervistato Alessandro Rossetto, il regista di Piccola Patria, un'opera prima già nei cinema, che racconta una parte dell'Italia che oggi è al centro della cronaca. Alessandro Rossetto, lei è il regista del film Piccola Patria, che debutta nei cinema, ma perché ha scelto di raccontare il nord-est dell'Italia? Una certa sofferenza della società nordestina, che io conosco molto bene, mi ha spinto a pensare di ambientare questa che è una tragedia universale, però in un luogo molto preciso, appunto, il nord-est italiano. Lei racconta la storia di due ragazze che sono schiacciate dall'ambiente in cui vivono. Lei è nato a Padova, ma è così difficile crescere nella provincia di questa parte d'Italia? Credo che può esserlo. Diciamo che queste ragazze, i personaggi del mio film, soffrono di un cattivo rapporto con il mondo adulto. Questo è un tema universale. A nord-est forse ci sono delle lacerazioni un po' più soppite, ma un po' più forte, cioè? è una società che ha avuto cambiamenti molto rapidi. I giovani soprattutto hanno visto e sono parte di un cambiamento intorno a loro molto forte, perché c'è un arrivo da altri luoghi del mondo molto ingente nel Triveneto e soprattutto in Veneto. Quindi l'immigrazione. Sì, gli adulti, come sappiamo, ne hanno sofferto un po'. E quindi i ragazzi sono vittime delle difficoltà, diciamo, di integrazione tra adulti. Sì. Ma invece la crisi è un elemento che angoscia le nuove generazioni? Ma in qualche modo nel film il peso della mercificazione dei corpi e del futuro è importante. Quindi sì, in tutto il film adulti e giovani sono morsi un po' dalla crisi, i giovani soprattutto in quanto prospettiva di futuro. Rossetto, secondo lei lo spirito secessionista come può essere bloccato? Credo che non sia messo in atto un buon federalismo, quindi alcune fatiche che alcune terre italiane soffrono rispetto al centro del paese, al potere centrale, sono un po' dovute a questo, al fatto che non c'è stato un buon federalismo. E a nord-est la crisi mordendo ha reso alcuni rapporti piuttosto difficili. Forse è legato al tessuto produttivo del nord-est, questo che ha uno specifico... Preciso, un target preciso. Sì, perché l'industria e la manifattura in Veneto sono cresciute negli anni 70-80 in maniera velocissima e molto su base familiare. Quando la crisi ha cominciato a mordere, non ha solo morso il lavoro propriamente detto, ma anche le relazioni di ordine familiare, che erano in molti casi anche relazioni di lavoro. Rossetto, ma dia una buona ragione ai nostri ascoltatori per andare a vedere Piccola Patria. È come un film americano, sembra girato in Alabama, e invece sarete in Italia. È un buon motivo. Beh, sarà un buon motivo e vedremo. Il canone, mi dispiace per il professor Simonelli che non credo sia più collegato, il canone per qualcuno era sulla Juve che finalmente si è qualificata. E allora, oggi per Mix 24 la storia a cura come sempre di Marina Milone, noi racconteremo la vita di Emilio Salgari, il più popolare scrittore italiano di romanzi d'avventura, che però non viaggiava mai, ma scriveva i suoi romanzi restandosene in biblioteca.